falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Oggi raccontiamo la storia di una ragazza, di una cantante con una voce incredibile, imitatissima, un'icona di stile, un personaggio che ha attraversato come una splendida meteora il mondo della musica, cambiandolo per sempre. La nostra protagonista di oggi però è entrata tristemente a fare parte del cosiddetto Club 27, tutti gli artisti rock che sono morti proprio a 27 anni: Jim Morrison, Jimi Hendrix, Brian Jones, Janis Joplin e più tardi Kurt Cobain. È stata definita la maledizione del 27. Molti artisti che muoiono per suicidio, overdose, alcolismo. E purtroppo ha colpito anche lei, la nostra protagonista di oggi. Avete capito che è Amy Winehouse. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Una voce decisamente nera in una ragazza bianca, londinese, magrolina, di origine ebraica. Una voce che fin dalle prime note trasmette un mondo intero di travaglio interiore, di profondità e sofferenza miste a una passione incontenibile per la musica. Oggi ripercorriamo la sua strada, una strada brevissima, solo 7 anni di una straordinaria carriera prima della tragica fine. Una strada però intensa, talmente tanto da dilatare ogni canzone, ogni concerto e ogni sua apparizione. Amy Jade Winehouse nasce il 14 settembre 1983 a Enfield, un sobborgo di Londra, in una famiglia ebraica. Il padre Mitch fa il tassista e ha un ruolo decisivo nella sua formazione musicale, come racconta il biografo della cantante Chess Newkey Barden. Le cantava le canzoni di Frank Sinatra e per fargliele imparare cantava un paio di frasi e poi ne faceva cantare una a lei. E questo accadeva quando era piccolissima, prima che iniziasse ad andare a scuola. C'era sempre musica intorno a lei. Ed è lo stesso Mitch, il papà di Amy, che ce lo racconta. Cantavo una canzone e le lasciavo un verso, così lei imparava. The stars out tonight, I don't know if it's cloudy or bright. Ma la sua ambizione, che voi ci crediate o no, era diventare una cameriera sui pattini a rotelle. Però intanto si iscrive a una scuola di teatro dove canta, balla, recita magnificamente. Ha solo 9 anni ma è già un portento, come racconta la sua insegnante di allora, Susie Earnshaw. Cantava e ballava e sognava di diventare famosa, ma aveva una luce dentro di sé. Potevi vedere che c'era qualcosa e fin da quell'età capivi che sarebbe diventata qualcuno di molto speciale. This girl, she could be something special. No tears for continua la sua ascesa verso il mondo dello spettacolo. Riesce a entrare nella prestigiosa Sylvia Young Theatre School, dove però si trova malissimo, anche perché lei è una inguaribile ribelle. Viene espulsa a causa di un piercing al naso che era vietato e che lei rifiuta di togliersi. Ma Sylvia Young in persona comprende le doti incredibili di Amy, non può tenerla nella sua severissima scuola, però la raccomanda alla National Youth Jazz Orchestra. Siamo nel 1999, Amy ha solo 16 anni, diventa una cantante professionista. Entrare in questa orchestra è il sogno di tutti gli aspiranti cantanti inglesi, è un vero e proprio vivaio di talenti dal quale attingono tutti i discografici dell'epoca. Infatti nel 2002 viene notata da Simon Fuller, è l'uomo a cui si deve il fenomeno delle Spice Girls, nonché astuto ideatore di Pop Idol, è uno dei primi talent show, e la mette sotto contratto con la sua agenzia di management, la 19 Entertainment. Fuller le organizza un provino alla Island Record. Amy canta uno standard jazz del 36, There Is No Greater Love, accompagnata dalla chitarra, e alla fine tutti i presenti non possono che applaudire ammirati, ed è rimasto anche uno spezzone di questo mitico provino. Così Amy Winehouse firma un contratto con la Island Records, siamo nel 2002, lei ha solo 19 anni, però non si deve pensare a lei come a un prodotto costruito a tavolino dai discografici, perché lei è un'artista vera e le canzoni che canta devono necessariamente essere il frutto della sua personale esperienza. Non potrei mai scrivere niente che non sia personale, non potrei mai raccontare una storia o riempire una canzone di parole se non fosse qualcosa che ho fatto di persona. Posso cantare solo quello che ho vissuto. E poi, anche se si tratta di cose tristi, non le lascerai mai essere semplicemente così. Le racconto in maniera divertente, con humor. Io spingo sempre le cose oltre il limite. 2003, album di debutto, si intitola Frank, in onore di Frank Sinatra. Le canzoni sono scritte tutte da Amy con il suo produttore Salam Remy. Bene, questo album d'esordio vende 2 milioni di copie. Lei diventa improvvisamente una star e la sua voce viene paragonata a quella di Sarah Vaughan. Il video del singolo di debutto estratto da Frank, intitolato Stronger Than Me, mostra una Amy Winehouse bellissima, bravissima, sicura di sé, una vera star pronta a conquistare il mondo. You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort you when I'm there. Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando di come nel 2003 Amy Winehouse, a soli 20 anni, diventa già popolarissima grazie al suo album di esordio Frank. Da un giorno all'altro è nell'Olimpo delle star. Tutti amano Frank, questo album, tutti tranne una persona che ne parla malissimo, e quella persona è la stessa Amy. In alcune interviste consiglia alla gente di non comprare il disco perché lei non ci si ritrova, dato che la casa discografica ha inserito a sua insaputa, dice lei, alcune canzoni che non le piacciono. Insomma, non è contenta. Inizia a esplodere quel carattere anticonvenzionale e ribelle che ha sempre avuto, ma che in qualche modo viene acuito dal grande successo. Si prende già un periodo sabbatico, opera su di sé una trasformazione radicale, dimagrisce di 4 taglie, si riempie di tatuaggi, adotta la pettinatura che la distinguerà da quel momento in poi, il cosiddetto beehive, l'alveare. Adottò l'alveare perché voleva emulare direttamente le cantanti degli anni 50 e 60, le band di ragazze nere che spesso usavano la pettinatura cotonata, detta appunto l'alveare. Lei adora in particolare una girl band nera, un trio americano di ragazze che si chiamano le Ronettes. Si ispira a loro per creare una sua personalissima acconciatura alla quale dà un'importanza assoluta. Se i miei capelli sono a posto, tutto il resto va bene. Mi sono spiegata? è molto provocatrice, Amy, e il suo stile si fa conoscere per i suoi eccessi. Compare spesso sui giornali scandalistici per un look eccentrico, fuma apertamente marijuana, ma soprattutto beve in maniera smoderata. Ammette di soffrire di disturbi alimentari, anoressia, bulimia, ma in tutto questo non pensa a scrivere nuove canzoni. Sembrerebbe che il successo le abbia dato alla testa. Dopo Frank, Amy fece quelle cose che gli artisti devono fare per promuovere la loro carriera. Partecipò ai festival, ebbe diverse nomination, si fece intervistare, ma era stata un po' ferita dalla fama e dal successo, e quindi passava un sacco di tempo nei pub a ubriacarsi, in mezzo alla gente, semplicemente passando il suo tempo così. E così arriviamo al 2005. Tra feste, serate eccessive, Amy fa un incontro destinato a cambiare radicalmente la sua vita e la sua arte. Incontra Blake Fielder Seville. È un videomaker bello, dannato, e questo giovanotto fa regolarmente uso di droghe pesanti di ogni genere. Eravamo al pub The Champion. Lei mi regalò il suo album e mi disse di ascoltarla. Io avevo della cocaina e le chiesi se ne volevo un po', ma lei mi disse di no. Le chiesi perché no? E lei mi disse: perché se inizi quando sei molto giovane è un conto. Puoi sempre dire che sei stato uno stupido bamboccio. Ma iniziare adesso, dopo i 20 anni, iniziare a tirare di coca a 23, 24 anni, beh, non ha senso. Dopo lo fece solo in determinate situazioni occasionali. E ci vollero mesi, almeno 6-7 mesi prima di rimanerci sotto. La relazione tra Amy e questo Blake, quello che sta biascicando in maniera quasi incomprensibile, è un colpo di fulmine in piena regola. Diventano subito una coppia estrema. Lei si fa tatuare sul seno la scritta Blake's a testimoniare la sua appartenenza a quel giovane, con la sigaretta tra le labbra e una dose di cocaina nella manica della camicia. E si dice che il vizio vince sempre. Bene, dopo 6 mesi di relazione, Amy, che si è sempre dichiarata contraria alle droghe pesanti, è un'altra persona. È drogata, alcolizzata pesantemente, al limite dell'anoressia, è assolutamente incapace anche solo di pensarci alla musica. L'astro nascente del pop è una stella caduta troppo in fretta. La relazione con Blake si interrompe all'improvviso, gettando Amy ancora più nello sconforto. I discografici sono spaventati dallo stato di salute della ragazza, le consigliano di disintossicarsi ricoverandosi in un centro di riabilitazione, ma lei rifiuta categoricamente, dicendo no, no e no. Abbreviazione di Rehabilitation Center, clinica per la disintossicazione dall'alcol e dalle droghe, così intitola Amy Winehouse la sua nuova canzone autobiografica, dove lei racconta il suo rifiuto di andare in clinica. L'ha detto, lei scrive e canta solo quello che vive, e qui racconta un episodio assolutamente drammatico della sua giovane vita, la discesa nel baratro dell'alcolismo e della cocaina che la porta a toccare il fondo, il suo amore dannato per Blake, artefice del suo avvicinamento alle droghe pesanti, è in una profonda crisi. Il problema è che lui aveva anche un'altra donna a quel tempo e continuavano a prendersi e a lasciarsi, fino a quando lui decise di tornare dalla sua fidanzata di prima, quella con cui stava quando aveva conosciuto Amy. E questo avvenimento Amy lo celebra in una nuova canzone, dicendo: tu torni da lei, io torno in lutto. E c'è ancora una canzone autobiografica, Back to Black, verso il nero. Lei dice: ti amo tanto ma non è abbastanza, tu ami la cocaina e io il fumo, tu torni da lei e io ritorno al mio lutto. Da questa forte sofferenza nasce, come spesso accade, un altro incredibile successo, Back to Black. È un disco straordinario che regala a Amy Winehouse la fama internazionale, e tra poco vedremo il seguito e purtroppo l'epilogo di questa incredibile vita. Vento e il Gabbiano. Stiamo raccontando la meravigliosa e luccicante meteora Amy Winehouse, meteora non certo per mancanza di talento, ma per il fatto di essere un'artista dannata che vive a 100 all'ora, ha delle doti canore enormi, una voce nera unica che viene imitata ancora oggi, però ha anche una grande fragilità, è un'alcolizzata, inizialmente fumatrice di marijuana e poi arriva questo amore dannato, questo patto scellerato con Blake Fielder Civil, un giovanotto, un videomaker, un po' un perdigiorno che la avvicina alle droghe pesanti, e un rapporto travagliato, i due si lasciano, si riprendono in continuazione. Abbiamo visto come le esperienze di vita di Amy la portino a scrivere canzoni bellissime, perché lei ha sensibilità da vendere e ha anche un travaglio interiore e anche quella punta di ironia, come in Rehab, dove lei racconta il suo rifiuto a entrare in una clinica disintossicante, Back to Black, che è la sua sofferenza per la fine della sua relazione con il fidanzato. Il 27 ottobre del 2006 viene pubblicato a livello mondiale l'album Back to Black, raggiunge il top delle classifiche in un sacco di paesi, lei accumula premi su premi, ormai una stella di primissima grandezza. Bene, questo non le impedisce di passare dalle vette al baratro dell'autodistruzione, dove l'accompagna il demonio Blake Fielder Civil, che ricompare di nuovo nella sua vita. La prima volta che si fece di eroina, eravamo in un hotel in Islanda. Bevemmo champagne e facemmo un bagno. Avevo della coca, del crack e dell'eroina per me. E lei mi chiese se poteva provarla. Io sono un disgraziato. Le dissi, certo che puoi. La relazione tra Amy e Blake è più viva e profonda che mai, ma anche più maledetta che mai. E sembra proprio che a unirli sia tutto quanto li porti oltre il limite estremo a cui sia possibile umanamente arrivare. Pensando a quanto fosse piena di talento Amy e a quanto invece non lo fosse affatto Blake, un sacco di gente si domandava perché mai lei scegliesse di stare con uno come lui. Qual era il tipo di attrazione che sentiva? Erano molte le cose che le piacevano di lui. Sicuramente il suo modo di essere così dannato, come si comportava, e sicuramente la droga li univa fortemente. Era come se l'amore fosse la droga. Due cose contrastanti. Da una parte il disco Back to Black scala le classifiche, la canzone Rehab diventa un tormentone mondiale perché diventa il simbolo del rifiuto a volersi assoggettare agli schemi della società ben pensante. Questo da una parte. Dall'altra lei che scivola irrimediabilmente verso il baratro. Le sue apparizioni in pubblico sono segnate da performance disastrose, dimentica le parole delle canzoni, si presenta sul palcoscenico spesso ubriaca, fatta, sempre più magra, e il personaggio viene braccato dai giornalisti di tutto il mondo senza pietà alla ricerca dello scoop dell'ultima ora. E lei e Blake animano le nottate delle città dove la cantante si trova in tour o in promozione. Sono famosi, belli, dannati, non passano mai inosservati. Lui è il parassita che succhia celebrità e intanto arriva una notizia che tutti stanno aspettando. Avevo dei soldi perché avevo venduto delle apparecchiature che non volevo più e così andai di corsa da Tiffany. Per tutta la vita avevo sempre pensato che se un giorno avessi mai comprato un anello di fidanzamento sarebbe stato da Tiffany. Volevo chiederle di sposarmi. Ero piuttosto nervoso e mi vergognavo anche. Lei disse sì, poi no, poi sì, poi no e poi ci sposammo. And then we got married. È il 18 maggio del 2007 a Miami Beach in Florida. Amy Winehouse, che ha 23 anni ed è una star mondiale, sposa Blake Fielder Civil. Il loro appare a tutti come un amore in bilico sull'orlo di un baratro, è una relazione distruttiva che non può portare a nulla di buono, soprattutto per lei, perché lui non ha niente da perdere, lei ha una carriera di star mondiale davanti. E il proprietario del locale Jazz After Dark di Londra, Sam Shaker, un locale dove Amy inizia a cantare da ragazzina, amico di Amy, racconta così. Blake is the love of her life. Blake È l'amore della sua vita, ma al tempo stesso è una relazione distruttiva. Forse Amy sperava che un giorno lui sarebbe stato onesto nei suoi confronti, ma lui era fatto in un certo modo e non poteva cambiare. Mi domando, ma devi per forza avere una relazione così terribile per scrivere canzoni tanto belle? Amy si meritava un uomo migliore, più decente, che la amasse veramente tanto. Guy, who love her really so much. Il concetto che la vita privata e quella professionale in un artista si intrecciano inevitabilmente qui viene ampiamente scavalcato con Amy Winehouse. Per lei, specialmente dopo il matrimonio con Blake, non si può più parlare di vita professionale, ma solo di una relazione parossistica al limite dell'umano. La coppia vive una vita irreale, passando dall'ubriacatura all'incoscienza causata dall'eccesso di droghe, questo cocktail micidiale che va avanti giorno dopo giorno, trascina i due ragazzi allo sbando più totale, sfocia spesso nella reciproca violenza. James Ingham, giornalista del Daily Star Sunday, parla di una particolare foto. C'è questa foto che le ritrae all'uscita del Sanderson Hotel. Amy ha il trucco tutto sfatto, sono pieni di cicatrici. Amy ha del sangue sulle ballerine. Blake è pieno di tagli sul viso e sul collo. Non si era mai vista una cosa del genere, era un affare serio. Dopo questa foto non fu più lo stesso, non si parlava più della musica di Amy, della sua voce. Si trattava del fatto che c'era qualcosa di profondamente sbagliato in quella relazione. Chissà, probabilmente Amy si rende conto di quello che le sta capitando, perché entra e esce da uno stato semicomatoso dovuto all'alcol e alle droghe che assume regolarmente, ma senza ombra di dubbio capisce che non può andare avanti così. E come al solito lo dice in una canzone, quella che molti critici ritengono la sua più bella e che viene insignita anche del prestigioso Ivor Novello Award. La canzone è Love is a Losing Game, l'amore è un gioco dove si perde. Il 7 agosto del 2007 l'atteggiamento autolesionista di Amy arriva già al suo apice. La prima volta viene ricoverata per overdose, rischia di morire nel suo sangue. Vengono trovate tracce di cocaina, eroina e della chetamina, che è un sedativo per cavalli. Si teme per la sua vita. Questa volta Amy a questi rehab deve proprio dire di sì, però ci sta solo pochi giorni, poi ricomincia tutto come al solito. Vengono cancellati i suoi impegni, le sue tournée, non è proprio in grado di salire sul palco. Poi accade un altro fatto che per lei è disastroso, perché Blake viene arrestato per possesso di droga e viene condannato a 27 mesi di carcere. È il novembre del 2007, per molti è una buona notizia perché pensano che lontana da Blake Amy abbia una possibilità di riprendersi, però non è così perché lui le manca troppo. Blake venne arrestato e si pensò che fosse una cosa buona per Amy. La separazione tra i due doveva portarla ad occuparsi di nuovo della sua musica, ma non fu così. Se possibile peggiorò. Nel giro di pochi mesi la si vide sempre più spesso in giro, completamente ubriaca, sempre più magra. Fu evidente che non poteva vivere senza Blake. Se stavano insieme stava male, ma se non lo vedeva era anche peggio. Alla fine del gennaio del 2008 Amy viene ripresa in un video dove fuma crack. Sono immagini devastanti che fanno male a chi le guarda, oltre che naturalmente a lei, anche perché il padre Mitch ricorda che prima di conoscere Blake Amy non si era mai avvicinata a certi tipi di droghe. She was a complete opponent. Era assolutamente contraria alle droghe pesanti. Diceva che non capiva come mai nell'ambiente musicale tutti facessero uso di quelle droghe. Ma questo cambiò 6 mesi dopo che aveva sposato Blake. Non sto dicendo che sia colpa di Blake. Amy era responsabile delle sue azioni. Comunque è un fatto che le droghe pesanti entrarono nella sua vita con il matrimonio. Hard drugs coincided with their marriage. Tra l'altro, entro pochi giorni ci saranno i Grammy Awards, gli Oscar della musica, e mi ha moltissime nomination, 6 nomination. Dovrebbe partire a cantare davanti a milioni di spettatori a Los Angeles alla cerimonia di consegna, però le viene negato il visto per gli Stati Uniti a causa di una condanna per droga. È ufficialmente una indesiderabile. Viene allestita allora una cerimonia a Londra in collegamento via satellite. Vuol dire proprio che la volevano a tutti i costi. Ma lei in che condizioni sarà? Nessuno lo sa. Tutti si domandano se sarà in grado di cantare oppure no. Lei ancora una volta stupisce tutti. Arriva completamente ubriaca, ma canta divinamente. Forse si tratta di una delle sue performance migliori, una delle ultime. La notte del 10 febbraio 2008, Amy Winehouse compie questo miracolo. Vince la bellezza di 5 Grammy Awards, 3 per la canzone Rehab, 1 per l'album Back to Black, che intanto è arrivato a 12 milioni di copie. E infine vince un Grammy come miglior nuova artista. Solo gente come Beyoncé, Nora Jones o Alicia Keys ottengono un risultato del genere. These are this year's nominees for Record of the Year. Irreplaceable, Beyoncé. The Pretenders, Foo Fighters. Umbrella, Rihanna featuring Jay-Z. What goes around comes around, Justin Timberlake. And the Grammy goes to Amy Winehouse. Thank you to everyone at Island Records. Everyone at EMI Music Publishing. To Ray Ray. To Mark Ronson and Salam Remy. To my mum and dad. My Blake incarcerated, and for London, this is for London, because lei dedica la sua grande vittoria ai suoi genitori e a Blake, il suo Blake che sta dietro alle sbarre, e da un lato ha capito che la relazione è qualcosa di intenso e distruttivo che si sta esaurendo da solo, però da un lato è il suo grande amore, è l'amore della sua vita, è la sua condanna, è la sua dannazione. Lei dice che non vuole più tornarci con Blake quando uscirà di prigione. Così il 6 agosto 2009 viene ufficializzato il divorzio. In realtà è una storia d'amore troppo forte per poter essere spezzata. I due continuano comunque a sentirsi, a farsi del male, finché morte non vi separi, si dice. E infatti le cose vanno proprio in quella direzione, perché dopo una tristissima esibizione a Belgrado il 18 giugno 2011, in cui la cantante non è nemmeno in grado di stare in piedi, e l'ultima apparizione in pubblico il 20 luglio all'iTunes Festival di Londra, accade l'irreparabile. È il 23 luglio del 2011. Let me bring you some breaking news now, coming into us from Sky Sources. The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat, just 27 years old. Please were called by the London Ambulance Service to a house in Camden Square, Northwest 1, shortly before 16:05 hours today. Following reports of a woman found deceased. On arrival, officers found the body of a 27-year-old female who was pronounced dead at the scene, and I can confirm that the deceased is Amy Winehouse. Amy Winehouse viene trovata morta nella sua casa al numero 30 di Camden Square, nel centro di Londra. La casa diventa subito meta di migliaia di fan che la piangono disperati. L'autopsia rivela nel suo sangue la presenza di alcol in quantità 5 volte superiore al limite della sopravvivenza. Muore per uno shock etilico. Il 2 dicembre del 2011 viene pubblicato postumo il suo terzo album, Lioness Hidden Treasures, che contiene 12 tracce di inediti e demo, insomma quegli album un po' rappezzati pur di fare qualcosa da vendere. Le major sono esperte in cose di questo genere. E nel primo anniversario della sua morte, intanto, Blake tenta il suicidio con un cocktail di alcol e droga, ma gente così tenta sempre il suicidio ma non muore mai, viene salvato. Il 14 settembre del 2011, giorno in cui la cantante avrebbe compiuto 28 anni, la sua famiglia dà vita alla Amy Winehouse Foundation, il cui intento è dare sostegno ai giovani in difficoltà che soffrono di dipendenza da alcol e droghe. La mia più grande paura è sempre stata morire senza che nessuno sapesse del contributo che ho dato alla musica. Ma ora quello che ho fatto mi rende orgogliosa e se dovessi morire domani, so che in qualche maniera ho realizzato il mio desiderio. Con queste parole che in qualche modo fanno capire che lei aveva presagito il suo destino, lasciamo Amy Winehouse ovunque sia a volare, perché il colpo d'ala lo ha dato, purtroppo ha incontrato le persone sbagliate, è stata la peggior nemica di se stessa e quindi in qualche modo ha reso la sua parabola meravigliosa, ma anche troppo, troppo breve. E queste sono le vostre, le nostre storie. Qualsiasi altra segnalazione mandatecela, mandateci i vostri commenti, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it oppure a radio24.it il sito, insomma venite a cercarmi, venite a cercarci anche sui miei social, fate quello che volete, tanto se volete mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno.